La storia che stiamo per raccontarvi si intitola Pragerleben. È la storia di una straordinaria avventura che ho vissuto e mi ha cambiato. Ed ogni volta che la raccontiamo continua a cambiarci. È necessario però fare un piccolo passo indietro, attingere al serbatoio dei ricordi, riavvolgere il gomitolo della memoria ai tempi in cui esistevano le città. I palazzi erano magnifici e fatti di mura d'argento, di colonne d'oro, di porte di diamante. Di giorno gli uomini riposavano e di notte alimentavano i sogni di più alti propositi. Le strade, ah, le strade. I crocicchi, ah, i crocicchi. Più che a degli incroci assomigliavano a quelle radure che ogni tanto spuntano in mezzo ai boschi. Gli uomini e le donne erano teppisticamente felici, immoderatamente testardi nel proprio piacere, fino a snobbare le proprie esigenze. Me li ricordo bene. C'erano faraoniche piantagioni di banani lungo via dei fori imperiali. Un solo problema affliggeva quegli uomini. Un problema oggi brillantemente risolto dalle nostre amministrazioni. Grazie, Gianni. Grazie, Renata. Grazie, immobiliarista Carlino, presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio. E grazie, puntuale e ficcante redazione de Il Tempo. Grazie, bebè rubato in braccio alla madre. Il problema era il traffico. Questa mattina mi sono svegliato, senza lavarmi sono partito, ho preso un'auto, l'ho preso al volo, sopra c'è uno, parla da solo, non c'è rispetto per chi va a fette, quelli al governo li metterei tutti in manette, al capolinea la coincidenza. Terza fermata, sto a Tor Sapienza. Pezzetto a piedi, fa bene alla pancia. Cerco la fermata, non c'è, cambiato il senso di marcia. La strada è chiusa, nana, lavori in corso. Ritorno indietro, ma oramai mi sono perso. Giulietta m'aspetta, Giulietta m'attende. Se passa il 23, tra un'oretta sono da te. Se passa il 35 t'amerò incessantemente, se passa il 29 giocheremo a dottore, se passa la corriera ti amerò tutta la sera, se passa un aeroplano lo saluto con la mano. Poi sale un tossico, ne sale un altro, ne sale un terzo, stiamo già quattro. Sale una vecchietta, emana un offrore di mortadella, mi pesta i piedi, mi guarda male, ma io reprimo la rabbia che sale. Una peripatetica all'apparenza etiopica, io sono ormai distrutto, mi dice se vuoi ti lecco tutto. Ma non è finita qui, devo fare la pipì. Il movimento sussultorio stimola l'apparato urinatorio, ma se scendo poi mi tocca riaspettare il 27. A questo punto ci penso bene, me la tengo. Giulietta m'aspetta, Giulietta m'attende. Se passa il 23, tra un'oretta sono da te. Se passa il 35, t'amerò incessantemente. Se passa il 29, giocheremo a dottore. Se passa la corriera, ti amerò tutta la sera. Se passa un aeroplano, lo saluto con la mano. Ci sta un ingorgo al Prenestino. Ce ne sta un altro al Tiburtino. Al Casilino, all'Esquilino, al Collatino, al Nomentano, al Tuscolano, ad Ottaviano, a Tor Cervara, a Tor Manara, ci vorrebbe la Rupara. Giulietta m'aspetta, Giulietta m'attende, se passa il 23, tra un'oretta sono da te. Se passa il 35, t'amerò incessantemente. Se passa il 29, giocheremo a tutt'ore. Se passa la corriera, ti amerò tutta la sera. Se passa un aeroplano, lo saluto con la mano. Giulietta m'aspetta, Giulietta m'attende. Se passa il 23, tra un'oretta sono da te. Se passa il 35, t'amerò incessantemente. Se passa il 29, giocheremo a dottore. Se passa la corriera, ti amerò tutta la sera. Se passa un aeroplano, lo sfanculo con la mano. Nel 9 di febbraio conobbi Libuše Kapek, studentessa d'egittologia della Repubblica Ceca. Nel 9 di febbraio le chiesi cosa pensasse di Ramsete II e lei confessò di nutrire una certa stima nei suoi confronti. Nel 9 di febbraio me ne incantai. Io la portai di corsa alla mostra di Hokusai. Nel 9 di febbraio la baciai di fronte al museo del Bonsai. Nel 9 di febbraio la portai a casa sua, di fronte al portone di casa sua. Lì di nuovo la baciai, imitando i pesci di Hokusai. La notte tra il 9 ed il 9 di febbraio, di fronte al portone, vicino al fioraio, mi prese la mano, aprendo il portone, due rampe di passi. Ed ecco il salone, fu lì che ci amammo teneramente ma non senza passione. Oh yeah. Fu lì che ci amammo serenamente su un divano poltrone. Nel 9 di febbraio Libuše afferrò un volo low cost diretto a Praga, partita sparita, perduta, volata, smarrita, svanita, abolita. A un tratto, lontani e stranieri, davanti al panorama scheletrico del mondo. Sei andata dove non so. Ma vedo che non qui sei, neppure un po', e non vieni mai dove non sei. Il buio del malgrado che non scende mi sconquassa, rischiara, non ricuce e mi ferisce la voce. Non ci sei, neanche un po', e non stai mai dove io sto. E tu non ci sei, mai, neanche per un cameo, proprio mai, e dove io sto. Tu non sei ad incontrarmi, così che non so che fare se non inseguirti, senza cercarti, nelle assenze che non sono io a causarti, e non ci sei, né qui, né mai, neppure un po', e nemmeno dove stai. Amore mio, io non lo nego, ne è passato molto poco, ma nell'amore affogo. E in tutto questo molto poco c'è stato il tempo, amore mio, di sovvertire qualche regola del gioco, ma nell'amore affogo, ma nell'amore affogo. Nel 10 di febbraio mio fratello Giuffà mi chiese di commentare la mia storia con Libuše. Una trambata, a dire la storia inaspettata ed inaspettatamente coinvolgente, tanto da lasciarmi spiazzato, stordito, inebetito. Nel 10 di febbraio zio Luisito, emigrato in Argentina durante la dittatura fascista, fu investito da un tram a Buenos Aires, nel quartiere Palermo. Non avevo mai visto mio zio, ma una fotografia era bastata a comprenderne il mito. Completamente glabro, occhi scuri e penetranti, sorriso beffardo, mobile. Dietro la foto aveva vergato a grandi lettere un'asta alla vittoria che, a quanto mi riferirono, era il suo modo abituale di salutare. Nel 10 di febbraio, mentre andava verso la vittoria, zio Luisito finì sotto un tram. E allora pensai, ma insomma, mi avete tolto l'ibuso e ora mi togliete anche le parole per evocarne l'assenza. Potrò almeno dire che sono spiazzato? Nel 10 di febbraio il mio amico Giuffà mi chiese, come stai dopo la morte di tuo zio Luisito? Spiazzato. Ma non sei un po' troppo spesso spiazzato? E mi fece riflettere. Dirsi spiazzato presuppone il fatto che precedentemente ci si sentisse piazzati. Ma dove? In cosa? In realtà era un bel po' che mi sentivo tallonato dalla meschinità ed avevo la percezione di attraversare un fitto nulla. In quel vuoto pneumatico pensai che una cosa fosse ancora possibile. Nel 10 di febbraio, Giuffà, volgere le spalle alle mie spalle, partire, andarmene, via. Ai bordi del partire c'è l'alfabeto della paura, le appassite preoccupazioni del vedere e avvenire. Ai bordi del partire non sta l'arrivo, come neppure la partenza, ma solo il timore di quando si è lasciati dalle cose che si crede d'avere. Al centro del partire c'è l'arrivo, non lo spostamento, ma le ginocchia fredde dell'attesa, il fluire immaginato di nuovi canti. Prima che l'arrivo finisca non si è ancora fatto in tempo a partire, lo spostamento è un canto che col partire non ha niente a che fare. Percorro di corsa la via che si avvita lungo la collina e sono su. Ad attendermi una folla cosmopolita di silenziosi fedeli tutti sporchi di sole. Sotto è Praga. Mi chino sul parapetto di un vecchio ponte, le mani sulle vecchie pietre, e mi chiedo non chi, non cosa, non dove, ma quando sono. Mi immergo a tal punto in questo sogno da smarrire date e luoghi e a niente serve la bussola ammattita del tempo. Qui gli uomini si credono nuovi e innovatori, mentre sono i vicoli, le piazze, i ponti ad imporci il cammino. Perché Praga è madre e matrigna. Come una madre ti veglia e t'assiste, solleva un vento leggero che ti tiene in piedi, ma come una matrigna ti sballotta da un luogo all'altro senza lasciarti raccapezzare, e poi ti ruba gli spiccioli, ti impedisce il sonno, ti costringe negli schemi di una lingua di nessuno per esaurire i bisogni elementari. Infine, come una madre matrigna, ti somministra miraggi e visioni, ed è così che sul fondo della Moldava vedo muoversi le pietre. Mi sorprende il campanaccio delle bufale ruminanti sulle bianche e sui ponti, e si fa vivo anche il campanello delle capre sui monti e sulle pietre nere degli altopiani. Alti, meravigliosi, bastopiani, rondini e libellule rimescolano la grammatica pallida delle betulle. Mi si fa contro un ciarlatano che dice: l'amore è ciò che resta indietro quando fai ressa al banco, l'amore è ciò che disappare quando il corpo è stanco. Ronzio lungo, severo, come quello degli insetti. Ne ho terrore e lo scaccio con una lancia e dei confetti. Procedo con passo d'asino che pena. Dall'altra parte tutta la luce del mondo, ed ecco, tagliata da sbarramenti schiumosi, la Moldava. In questa città sono completamente alla superficie di me stesso. Se ogni immagine in viaggio diventa simbolo, pure una bottiglia intravista da una finestra, cosa simboleggia l'immagine di me riflesso nella vetrina? Son io in goppa sta terra straniera. Sono io che cammino in un luogo straniero. Quando si tratta di stare attenti a sé, io sto attento a me, ed è un lavoro che mi prende tutto e dentro. Mentre invece ero venuto per inseguire un suono, senza falsità e proprio senza scopo, perché qui sono straniero e posso dire stupore dove gli altri dicono abitudine, e posso respirare dove gli altri tentano di capire. Ma in realtà ho un solo pensiero, che è il passo, tenere il passo. Penso solo a un piede dietro l'altro, un piede dietro l'altro, e questo penso sia la solitudine. Penso sia camminare. Sì. Ma che cos'è camminare? Se lo chiedete a Tristan Zara, vi dirà che camminare è un atto di pratica estetica e chi cammina ha l'occasione di rimpossessarsi del luogo percorso. Se lo chiedete alla tartaruga, vi dirà che per camminare e per superare la lepre conviene andare piano. Se lo chiedete a Honoré de Balzac, vi dirà che la camminata è la fisionomia del corpo attraverso la quale si intuiscono i vizi, i rimorsi e le malattie dell'uomo che si muove. Se lo chiedete allo zoppo, vi dirà che camminare è una maniera meno elegante, ma pur sempre una maniera di zoppicare. Se lo chiedete a Zelone di Elea, vi dirà che in fondo è inutile camminare. Tanto al punto B non si arriva mai. Ecco, qui, per la prima volta, mi sono sentito interamente solo, pro e contro. Ho un solo pensiero che è il passo, tenere il passo. Penso solo a un piede dietro l'altro, un piede dietro l'altro, ma prima implicazione, cancello da me l'idea d'amore. E entro nella birreria Ufleku. E qui l'importante è bere in fretta, pochi lo sanno. I falsi intenditori degustano, centellinano, analizzano e analizzando si ubriacano. Io bevo per vuotare il boccale. Solo dopo alcune pinte è possibile vedere attraverso il fondo cose che prima non sarebbe stato possibile vedere. Attraverso il fitto fondo del boccale vedo lo stadio affogato della notte ornata dal tram che mi porta a Žižkov, la tomba del Rabilò nel vecchio cimitero, e leggo sotto 100.000 sassi a 100.000 i segni dei visitatori. Il tuo passo che ha aperto frecar di un varco, la nobile ascesa di una volpe lungo una scala. La studentessa Libuce, la principessa Libuce che Praga fondò, e Rodolfo II, gli alchimisti e i palotini dietro il paravento delle loro bocche blu. Le piumate mie gambe scagliate dalle discese del castello. La mia mano recisa. Il sangue anticipato dei passi. Un enorme scarafaggio lungo la collina di Strauf. La vescica gonfia di neve degli albicocchi, le stelle sbocciate per la gioia del cielo. L'alito metallizzato del tram che non viene. L'incendio folgorante della Moldava. Che apre brecce e squarcia. L'immensa fica del mondo. Un cane che morde e sempre solo morde. I gangli intimi del tempo e il mio stupore di fronte al labirinto che ci nasciamo attorno. E vedo zio Luisito che mi saluta a pugno chiuso. Hasta la vittoria, dice che bisogna bere in fretta, pochi lo sanno. Attraverso il fitto fondo del bicchiere la vedo, mi guarda, sorride, è bellissima ed è inaspettata e vicina. I capelli corvini, gli occhi verdi, una costellazione perfetta di nei sulle guance. I seni sono tendenziosi, i seni sono astuti, i seni sono sfrontati, così tondi, gonfi e stretti in una canottiera rossa. Mi alzo, le siedo accanto, le parlo, ma non so cosa dico. Ti direi, io ti farei delle cose cosine, cosette, così perché l'è giusto anche quando è ingiusto. E sarei un po' volgare, banale, triviale, vabbè, ma normale esserlo un poco per gioco. E ti direi, io ti farei cose cosine, cosette, così perché l'è giusto anche quando è ingiusto. E sarei un po' volgare, banale, triviale, vabbè, ma normale solo un poco per gioco. Direi, ti farei certe cose cosine, cosette, così perché l'è giusto anche quando è ingiusto. E sarei un po' volgare, banale, triviale, vabbè, ma normale solo un poco per gioco. Io ti vorrei avere sotto le barbe delle epifiti, poggiata ai vetri umidi della serra, col culo cedevole alle moine d'un dialogo il cui peso le cosce tremano. Io ti direi, io ti farei, io ti direi, io ti farei, ti direi. Oh, ma lo sai che sei bella come il parco dei caduti, ma molto prima che cadessero. E ti farei, cioè, io ti farei certe cose cosine, cosette. Ma che vai in pizzeria? Al Maradoneda, alla Formula 1? No, no, perché io modestamente in cucina un po' me la cavicchio e ti farei, ti preparerei certe cose cosine, cosette. Oh, ma lo sai che sei bella, ma così bella che sei più bella di tua madre. E poi hai una voce che sembra il volo di un airone, e hai una gamba che da sola sembra il volo di un airone, e sotto il naso hai una conca che sembra proprio il volo di un airone. E poi quell'airone che tieni in mano, quel bell'airone, ma che ci fai? Certe cose cosine, cosette. Sono preso d'amore per te, straniera. Pochi minuti e so che ti chiami Dalia. Sei di Israele, ma vivi a New York. Dove studi? Che studi? Antropologia. E questo taglia fuori tutti i discorsi che avrei potuto intavolare se avessi frequentato una qualsiasi altra facoltà. Ora che le chiedo, cosa pensi dell'uomo? Lei non ricambia la mia curiosità. Non mi chiede chi sono, cosa faccio, quel che peggio, non sta ad ascoltare mentre glielo dico comunque. Allora mento, mi dico pittore psichedelico di proclami della Repubblica di Salò, fanatico della riflessologia plantare, convinto sostenitore dell'ETA e dello Sinn Féin, ed infine mi dichiaro risoluto your hoochie coochie man. Questo è uno dei miei problemi con l'amore, la sua o la mia natura mistificatoria. Tendo ad alterare ciò che provo attraverso ciò che dico. Ma poi, Dalia, in quale lingua intendersi? Come intendersi con la bellezza? Cosa le si può dire? Dire parole? Dare parole? Cosa possono aggiungere le parole che non sia lusinga o idolatria? Io sospetto le parole. Sospetto siano una manovra per vestire i nostri bisogni animaleschi con una foggia civile. Io sospetto le parole. Le poesie d'amore sono sempre in malafede. Ama con me questa notte. Se guardi su t'accorgi che non c'è ragione per non farlo. La luna è piena d'uova fresche. Non c'è notte più notte di questa. Sulle panchine salta un gatto che presto dopo arriverà sulla nostra a farci le fusa. Ama con me questa notte. Se ti sdrai giù senti che non c'è ragione per non farlo. La terra è coperta dallo zucchero. Non c'è notte più notte di questa. Dal buio s'affacciano le lucciole che useremo come fermaglie a tenere insieme i nostri cuori. Se torni, porta un cucchiaino che si fa lo zabaglione. Assumere una posa, brevettarmi un gesto, realizzare qualcosa di risolutivo, insomma, perché lei mi ammiri qui, ora, subito, mi desideri e si faccia avanti in modo netto, inequivocabile, gentile e volgare, tenero ma non disarmante, intrigante ma non aggressivo. E lei mi guarda e mi sorride, mi guarda e mi sorride, in quello sguardo, in quel sorriso, ci sta tutto questo assieme. Il nostro girovago far niente si scatena nella smisurata proposta della notte per i vicoli della città vecchia. Ci affacciamo su Staromesche Namesti, che è un enorme lago ai bordi del quale sono ormeggiati la chiesa di Santa Maria di Trin, l'orologio astronomico ed il negozio di rigattiere di Herman Kafka. Al centro, l'enorme boa del monumento Jan Hus, ed è quella che raggiungiamo ad ampia falcata. Dalia, come per un sussulto improvviso, mi agguanta la mano e allunga il passo. Entriamo nello Zeleshna Club ed andiamo a sedere nel reparto riservato agli ebrei. Questa umida cella sotterranea somiglia ad un locale jazz dove un nero sventato di New Orleans suona, beve birra, si lamenta e ride. Le cose sommate danno giusto l'America. Il suonatore swinga e ad occhi a birra e Dalia, Dalia sorride, ascolta, tutti nel locale ascoltano e sorridono. E così per un pezzo Dalia mi ignora ed io ripiombo nei miei pensieri cupi. Ma tu Dalia, mi hai guardato di sguincio da un tavolo della birreria Oflego. Tu mi hai guardato come guardava Gesù, detto il Cristo, che posava lo sguardo sul peccatore e se lo capava, lo sceglieva, per così dire lo cambiava, lo salvava. Il bluesman saluta il pubblico, in un inchino perde il cappello da cowboy, tutti ridono, io sono invisibile. E no, così non va. Il mio umore medio, cari amici dello Zeleshna Club, è la malinconia, non la tristezza. Chi ha dolori o preoccupazioni sa perché è triste e preoccupato. Chi è malinconico invece è misterioso a se stesso. Io, la mia malinconia mi serve, mi sta comoda. Dentro di lei ci ragiono, ci canto e non mi vergogno. La mia è la malinconia di Nerone, mentre voi, amici dello Zeleshna, mi imponete questa tristezza priva di fascino e mistero. Poi, ad un tratto, guizza l'inatteso, il meglio che si possa accadere in quelle serate nelle quali mi avverto a metà tra l'irresoluto e il cupo. Di nuovo Dalia si volta, si curva, si china, mi versa un bacio ed io lo bevo. E in pochi passi gai siamo sul Ponte Carlo, le mani sulle vecchie pietre, e poco dopo siamo sotto il ponte, sull'isolotto di Campa. Di fronte al graffito di John Lennon, io faccio per baciare, le schiva e tira giù nella compatta oscurità. Si abbracciarono. Il corpo esile scottava nelle mani di Kappa. Passarono ore, ore in cui respirarono all'unisono, i loro cuori palpitarono insieme, ore in cui a Kappa parve di perdersi, a girarsi in un paese sconosciuto dove nessun essere umano era mai stato, un paese la cui stessa aria era così diversa dalla sua aria nativa che si poteva soffocare, tanto ci si sentiva estranei, eppure così allettante che non si poteva fare a meno di addentrarsi, perdendosi sempre di più. Sto andando dove non so, non son qui né lì e neppure dove sto. Dalia si era addormentata in posizione fetale, i polsi introflessi, i capelli sul volto ed era immobile, neppure il petto le si sollevava. Io le stavo di fronte in piedi e vista da lì sembrava un uovo, quasi perfetto, conchiuso, bastevole a se stesso. Fine, chiuso, dormo, rientro nel mio uovo. E cos'è quindi questa fiamma che mi hai bruciato? Tu ti basti, è evidente, sei compiuta, tu sei un uovo, perfetta, sconosciuta, pensavo. E fu allora che ho compreso che l'isolotto di Campa serviva a far fagotto di tutta la disallegria e fiondarla nella Moldava. Giunto il tempo di scorticarsi di dosso il male, percorso lo specchio minutamente infranto, sull'isolotto di Campa ho scontato la tristezza e al ritorno non sono stato più triste. Non più in quel modo. A Campa, a campi tette dure come le pale del mulino, suonate dai canali bui della Moldava. La luna ingrigisce questa costellazione di fronde, questo lieve sciabordio d'acque infotografabile. La piazza dell'ostello pare una piazza d'armi. Mi disarmi, la parte bionda del tuo cuore s'ammutolisce. Le pietre nere che stringono il corso del fiume son lisce, poggiate da qualche molosso. Le vie pallide del parco riflettono le stelle di piombo che s'affacciano dagli scuri del cielo. In piedi sulla Moldava ho fissato le mie scarpe scassate a fluttuare sull'acqua. Galleggiavo e pensavo: di tutto questo mordermi le ginocchia mi renderà conto mio figlio, ma per la mia salvezza voglio sperare che la vita sia possibile, voglio immaginare esista un modo per sconfiggere questa melassa ansiogena che mi rende inerte. Questo pensavo quando Dalia riemerse dal sonno. Ancora notte fonda, la osservo e so che perderò la memoria del suo viso. A un tratto, lontani e stranieri, davanti al panorama scheletrico del mondo. Sul marciapiede c'è il tuo piede che passa, da ombra ma non lascia orma, da ombra ma non lascia orma, il tuo piede che passa, che passa, che passa, che da ombra ma non lascia, non lascia, non lascia, non lascia, sul marcia tuo piede. Sorrido, estingo nell'aria spessa dal marciapiede, studio la rossa notte, morta e resuscitata dal sereno incanto dei netturbini che con una Marlboro in bocca ridono tra loro, ma se li guardi bene un po' fanno paura, come i becchini, come i vigili, come quello che è sicuro di sé, è sazio di vita e sa quando è il momento di alzarsi dal tavolo, e si alza e sa pure dove andare e parte e ci va. Nel 13 d'agosto, a poche ore dall'abbandono, sospeso nell'attesa di nuove succhiate, svuotato il costato a lasciar posto, ecco il mio cuore che cede ed è orribile. Due macchie gialle impresse in marce bisbigliano alcuni passi di Milton. Rimesso piede nel condominio di Roma, una Roma spezzata, lucida, spigolosa, presi a contarmi i ricordi, nelle ossa, nei pensieri. Perché ai bordi del tornare non sta l'arrivo come neppure la partenza. Ai bordi c'è solo il timore che l'arrivo non finisca. Noi, questo è quello che ho imparato. Mi piace l'amore. Mi piace l'amore. Senza biglietto all'ingresso mi piace. Mi piace l'amore al trancio, da asporto in pratiche casse, che in solidi camion viaggiano lente e pesanti su complesse autostrade grigio-verdi. Mi piace l'amore posto con cura su pratiche scaffalature. Mi piace. O nella versione tascabile, a pile o a luce solare, in omaggio, in inserto, mi piace l'amore, in allegato. Mi piace sceglierlo al bancone, indicarlo col dito, nel carrello, poi mi piace riporlo e pagare. Mi piace pagare l'amore ed attendere il resto. Mi piace il foglio avvertenze all'interno, piegato con cura da mani colme d'amore. Che l'amore mi piace sia colmo. Mi piace il disagio del rischio in caratteri minuti, nausea, svenimenti, attenti cardiopatici. Chiamate l'amore vaso dilatatore. Mi piace il carcere ovale dell'amore, le spesse sbarre, lo sfollaggente che le percuote, il bianco negli occhi del compagno di cella che nella notte ti fissa e non è amore. Mi piace pensare che tu sia l'amore, mi piace sapere che tu non lo sei e che proprio non possa. Mi piace la fossa nella quale ti meno, tra i fogli spessi dell'elenco del telefono dove non esisti. Mi piace l'amore perché non esiste, mi piace l'amore perché resiste. E infatti resiste alla consapevolezza, come un annuncio del metrò. Mi piace l'amore perché resiste alla consapevolezza, alla colpevolezza della bellezza dell'amore che non esiste. Come non esiste una mano lucida e flessibile che oggi dà e domani prende. No, non può esistere l'amore quadrato, tondo, a spicchi e a specchio. Non può esistere il lastricato lavico, la scaglia d'ardesia ed il cemento armato. Non può esistere la linea di mezzeria che spacca il selciato ed il senso di marcia. Non esiste la piazzola di sosta con inserti catarifrangenti. Non esiste l'amore. Non esiste ciò che si ama se lo si chiama con voce che non esiste né suona, fino alla porta, a un metro dal letto, che non la frange o solo discosta. Non esiste la porta e non esiste l'amore. Mi piace, mi piace l'amore quando cammina e si china per raccogliere le chiavi. Mi piace quando si lava i capelli e seleziona balsami. Mi piace nel tubetto logico, sicuro e salva risparmio. Mi piace l'amore quando mi guarda attraverso e sbaglia nome. Mi piace l'amore indeciso, impreciso, inatteso, inattuale. Mi piace l'amore virtuale, virtuoso, confuso, chiassoso. Mi piace quando si china per le chiavi o per lavarsi i capelli, perché io sono tra quelli a cui piace l'amore, quando provoca nausea e svenimenti. E mi piace quando è fesso l'amore, quando è falso, contraffatto, offeso. Si lascia fregare e ride, ride l'amore offeso che si lascia fregare, perché è ottuso l'amore. Io sono ottuso ed io sono l'amore. E mi piace l'amore che non esiste. Mi piace. Tentando di riallacciare tutto questo te che te ne vai, che mi pare di non averti vista e mai, a me, che spero scappi da me, che lo sai, t'attendo come un restauro, riesco a stento a concentrarmi sui dettagli della mia fine. In volo sulla piazza c'è il sole, ha dentro una carota con fame, dal ponte guardano al fiume le coppie proiettate al futuro. Impegnando le meningi a scovare le cause che mi pare di non avere lucidamente sotto mano, di quel te che te ne sei andata da me, che lo sai, t'aspetto ancora, riesco a malapena a prestare orecchio agli aerei. In volo sulla piazza c'è la festa che mi si dice d'un centenario. Alla stazione, sul binario, gli amanti innescano il futuro. Fotografale queste sere e notti e la scia di tabacco che seminiamo alle spalle, mentre io m'appunto sui polsini, l'aria che sposti, i colori che danno scia, i giochi circolari di speranze e azioni, le stupide canzoni che tanto amiamo, i fiaschi colossali che ci riveliamo, le nuvole sospese ai lampioni. Se vuoi scivola ancora nei miei palmi caldi, se vuoi parlami ancora di tuo padre, o leggimi i tuoi incubi e le notti oscure sotto la luce delle nuvole e i lampioni. Sleghiamo l'orologio che ci legano al collo, destiamo l'inquilino del terzo piano, beviamoci il Brasile e questa notte intera che sta sospesa tra le nuvole e i lampioni. Se vuoi ora un poco slaccia quella giacca.